tanto amati per un anno e forse più. Ci eravamo poi lasciati, non ricordo come fu, ma una sera ci incontrammo per fatal combinazione, perché insieme riparammo per la pioggia in un portone. Elegante nel suo velo, col suo bianco cappellin, dolci gli occhi suoi di cielo, sempre mesto il suo visin. Ed io pensavo ad un sogno lontano, a una stanzetta del pioveva, come pioveva. Come stai? Le chiesi un tratto. Bene, grazie, disse tu. Non c'è male, e poi distratto, guarda che acqua viene giù. Che m'importa se mi bagno, tanto a casa debbo andar, ho l'ombrello d'accompagno, grazie, non ti disturbar. Passate un po' una vettura, io la chiamo, lei fa no, dico via senza paura, su montiamo e lei monta. Come pioveva, come pioveva. Ma il ricordo del passato fu per lei il più gran dolore, perché al mondo aveva dato la bellezza ed il candor. Così quando al suo portone un sorriso mi abbozzò, nei begli occhi di passione una lacrima spuntò. Io non l'ho più riveduta, se felice chi lo sa, ma se ricca o se perduta, bello ognor rimpiangerà. Quando una sera in un sogno lontano, nella vettura io le presi la mano, quando salvare l'ancor si poteva, come pioveva, così piangeva.